Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, tornati in diretta, ascoltatori in diretta, non è registrata come prima, venite all'ascolto, venite, venite in diretta, dovete chiamarci 800 24 00 24, le vostre opinioni al 342 2866. In diretta vi vogliamo scoppiettanti, vi vogliamo anche protestatari, perché ovviamente irrompiamo nel vostro sabato all'inizio del fine settimana con questo spiritaccio da gufacci, lì poi ci hanno dato dei gufi, alla fine ce lo prendiamo, i gufi ci piacciono. Comunque, cari ascoltatori, ecco, inizia la serie in diretta dei compari minoritari, quattro compari minoritari che vi tengono compagnia in diretta, lo sottolineo, dalle 10 alle 12 nei sabati mattina su Radio 24 fino al prossimo luglio, e cioè oltre alla voce da papera di Oscar Giannino, che vi ha salutato in questa maniera, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Eccoci qua, compagnia... tutti schierati stamattina. La compagnia di tutti. Almeno quando ricominciamo, dai, ci facciamo trovare a Milano. Schierati, non schierati. Ragazzi, Che sia chiaro ai nostri ascoltatori. Del rigore intellettuale, caro Mario. Abbiamo introdotto l'azienda per verificare la vostra produttività, poiché non un solo euro esce dalle tasche del gruppo editoriale Sole 24 Ore che non sia... Mi voglio rovinare neanche un mini bot, proprio niente. Non fare ironia che nessuno è in grado di cogliere in questa maniera. Come no? Ieri Draghi ha detto chiaramente che è illegale, sì, mettere ma monete. I nostri ascoltatori a quest'ora salvavolta non sanno non che c'è sanno. In Italia chi propone il mini bot, la doppia come moneta e così via. Sono... Tu fai la battuta, le battute che un comico fa su una cosa che nessuno conosce non sono battute. Un sono comico, sono ma sono qui stiamo parlando di un detto, commento economico. Carlo Alberto Carnevale Maffè ha detto la prima iniziata. Questo è il punto, la sostanza della trasmissione. Va bene. Allora, ragazzi, su... io dico subito agli ascoltatori, pregandoli di telefonare, che in realtà faremo il punto iniziale prima con Mario Seminerio, come sempre, con la sua rubrica, e poi nella mezz'ora successiva faremo il punto iniziale per capire questi consolidamenti di presa quanto sono solidi, e finale 11 in realtà tratteremo con un ospite e soprattutto con Renato come imprenditore e Carlo Alberto come consulente di imprenditori, sentiremo un ospite intorno a che cosa davvero si sta muovendo sulla domanda e l'offerta delle imprese, dove naturalmente la domanda e l'offerta ha due lati, le imprese sono protagoniste sia della domanda che dell'offerta in quanto lavoro e in quanto clienti fornitori, e per capire anche un pochino, visto che noi abbiamo i dati del commercio, come ci ha fatto regolarmente osservare Mario, che non comprendono l'e-commerce in Italia, quindi continuiamo a guardare il futuro con lo specchietto retrovisore, è andato a Cifarelli giustamente su questo, dice, e invece è molto importante capire, le imprese italiane hanno capito come si usa la rete, internet, eccetera, eccetera, quindi fino alle 11 ci occuperemo di questo, e diteci se volete, se ci credete davvero nel consolidamento delle imprese italiane, che comunque c'è, vedremo, soprattutto è agganciato all'estero, ma comunque c'è, e invece che cosa non vi convince, quindi insomma tema libero 800 24 00 24 per chiamarci, per le vostre opinioni 3492 38 6666. Poi dalle 11 in poi iniziamo in questo ciclo ad alternare un po' di rubrichette, quindi due di queste, per esempio una saranno in questa trasmissione, entrambe voglio dire, una dedicata ai temi del consumo, la nostra sarà la logica di spiegarvi non il consumerismo becero, ma insomma un po' di consumerismo intelligente dal punto di vista di chi è di mercato, per tentare di identificare alcune trappole contro il cliente senza cadere però nella demagogia anticapitalista e antiimpresa. E cominciamo questa settimana con come mai le aziende di telecomunicazioni continuano a fatturare a 28 giorni, e lo chiediamo alla Agicom. Sono ovviamente diventate un po' lunatiche, capisci? Hanno cambiato il parametro di riferimento, invece che il mese sole, lunare era quello dell'impero romano, e noi che abbiamo c'è qualche nostalgico che vuole fare la marcia il 28, e quindi le telco anche loro hanno aderito e hanno adottato. Non solo le telco, non solo le telco. Esattamente. Poi invece ci sarà un'altra rubrica dedicata ai rottamati. E quindi tenteremo di tirare fuori ogni volta dalla storia un rottamato che secondo noi o non era da rottamare, o comunque un rottamatore simpatico che ha molto da dire ancora, eccetera eccetera. Il rottamatore, come sai, adesso diciamo è rottamato a poca volta, è rottamato, ecco, anche lui. Vediamo di recuperare il rottamato, che non si butta via niente, ragazzo mio, no. Bisogna riciclare. Benissimo. E ovviamente avremo poi anche, torna con noi il teutone che molti purtroppo irrita, cioè il nostro Udo Gumpel, perché ormai il 24 la Merkel, mi dispiace per chi ti fava contro, ma verrà rieletta in Germania, e quindi tenteremo di capire che cosa succede lì. Non hanno fatto neanche la campagna elettorale. No, come l'hanno fatta? L'hanno fatta, ma lei la vince a questo punto. Non hanno, hanno fatto anche un grande testa a testa televisivo che lei ha stravinto, e si sono addormentati facendo, tutti. Esatto, facendo la sua parte, cioè niente di spettacolare, niente che avrebbe fatto imbizzarrire la televisione italiana, niente di niente, stile tedesco. Lei ha vinto in quanto ha detto, ha alzato meno la voce. In buona sostanza il motivo per cui ha stravinto è perché questa la gente si aspetta da lei, una persona seria. Allora, una pillola al volo in giro di una cosa che nel corso di questo mese di agosto vi ha lasciati perplessi, estasiati, distrutti, vi ha lasciato l'amante, vi ha scoperto la moglie con l'amante. Renato, che è successo in questo mese di agosto? Beh, la moglie mi ha scoperto con l'amante un sacco di anni fa. Quindi, però, no problem. Disclosure! No, no, mi sono fatto scoprire, vabbè, questa è una storia lunga, però ormai è di tanti anni fa. No, il mio agosto è stato un po' lontano dai giornali, perché ormai sopporto poco l'inseguimento del populismo. Ad esempio tutta la parte sui vaccini, che considero una parte molto importante, che poi ci siano i governatori che si erigono a quelli che no, non bisogna, no, non c'è, cioè tutte queste discussioni. Salti a pie pari, le salti. No, ma sono poco interessanti secondo me, cioè questo è un paese che si sta inviluppando in tutta una serie di stupidaggini, per usare una parola radiofonica, in una serie di stupidaggini, e non si cura di quello che sono le cose importanti. E quindi, per esempio, c'è tutto un dibattito sulla scuola che sottace, dove in questo momento la scuola è fatta per gli insegnanti e non per gli alunni, sì. No? E tutti si dimenticano, ne parleremo dopo sul discorso del lavoro, che oggi il problema più grosso che hanno le imprese è il disallineamento fra il lavoro, fra la scuola e le competenze che offre la scuola e le imprese che riconosce di cui ha bisogno. Allora, ne parleremo stamattina. Stamattina. È un pezzo che manca alla ripresa strutturale. Carlo Alberto, questo agosto cos'è che ti ha stupito o che ti ha deluso? No, mi ha stupito invece che silenziosamente, fatemi fare una roba un po' ottimistica, silenziosamente questo paese si presenta a settembre per una volta, scusate, non con l'idea del settembre caldo, dell'autunno difficile, ma dopo tanti anni, devo dire una decina d'anni, invece con un velo di ottimismo, anzi forse un filo di ottimismo di più di quello che sarebbe giustificato. Quindi ho passato un agosto a vedere un paese che si sta interrogando sul futuro, quindi sono un po' più ottimista di te, posto che l'ho passato, come sanno i miei amici, in giro in moto per i monti Tatra. Posti bellissimi. Vabbè, posti bellissimi, sì. Oddio, insomma, per capire un po' capire le radici dell'Europa, sono andato per i posti dove gli europei sono ammazzati a milioni, quindi vi confesso di aver fatto tutte le trincee della prima guerra mondiale e qualche bel ottimo pezzo della battaglia della seconda, perché sai, quando sei in moto vai dentro come il carro armato attraversa l'Ardenna o la pianura della steppa. Niente, quindi dico che un'Italia che secondo me si sta rimettendo a lavorare, ecco, vediamo. Io sono abbastanza contento. In settembre ci rimettiamo finalmente ora a lavorare. La certa, strasicura, inappellabile nota del più ottimista tra noi, cioè Mario. Certo. No, io sono abbastanza d'accordo con Carlo Alberto, nel senso che la ripresa è in atto, quindi, però noi ve lo diciamo da mesi e io continuerò a dirvi che noi ve lo stavamo dicendo. Dopodiché abbiamo davanti un'elezione generale dove non vincerà nessuno, dove mentre gli altri tenteranno di riformare il fondo di stabilità europeo, il meccanismo di stabilità europeo, noi saremo qui a parlare di vaccini e esatto, di altre sì cose, e quindi vedremo. Invece una cosa che mi ha colpito è una notizia che è uscita praticamente ieri. C'è stato un consiglio dei ministri che ha dato un'ulteriore spinta a quella che è l'agenda digitale, no? Cioè praticamente lo riporta il Corriere stamattina, in prospettiva tutte le comunicazioni con l'amministrazione pubblica, notifiche, atti, eccetera, potranno avvenire digitalmente attraverso la PEC e lo SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale, il che, voglio dire, è un'ottima cosa perché si stimano risparmi annui per 250 milioni. Il problema, come segnala anche l'articolo del Corriere questa mattina, è evitare che, poiché alla fine, quando questa anagrafe sarà completata, sarà pubblica, e quindi gli aderenti, incluse le persone fisiche, saranno rintracciabili con la loro identità digitale, noi rischiamo di avere i martellamenti commerciali delle aziende che passano, escono dalla porta e rientrano dalla finestra digitale. Quindi questo mi inquieta abbastanza, per quanto l'idea della comunicazione digitale immediata, bypassando gli atti cartacei, è affascinante. Sì, è un'ottima idea. Perché io sono un cultore della materia, diciamo, una delle mie perversioni. Però vediamo come va a finire. Se riesce, questo sarà un altro piccolo, significativo passo avanti verso la digitalizzazione di un paese che ha molto bisogno di digitalizzarsi. E io butto lì solo una cosa di 5 secondi, perché poi andiamo in pausa e torniamo con la rubrica appunto di Mario, con questa così ottimistica sigla che abbiamo tenuto, cari ascoltatori, poi sentirete qualche rumorino nuovo invece nel corso della puntata, per dirvi che considero tutto, la maggior parte del dibattito in corso nella, questo cantiere pensioni, come un dibattito invece molto preoccupante, molto molto molto preoccupante. Il regaluccio ai giovani precari di oggi, di qui a 20 anni, per avere un'integrazione sociale a 620 o a 680 euro è una roba che mi lascia senza parola. Invece politiche attive per dargli lavoro oggi, gli promettiamo una roba tra 20 anni. I 6 mesi di requisito contributivo in meno per dare l'APE sociale alle donne non sono una politica per la maternità. La politica per la maternità si fa con politiche alle giovani donne che gli consentano di temperare meglio il tempo lavoro con la cura parentale. Quella è un'altra mancia preelettorale. Il blocco degli scatti automatici collegati alla demografia del requisito anagrafico dell'età pensionale è un'altra mancia elettorale, del tutto scissa dall'andamento del bilancio dell'INPS e da chi paga in un sistema a ripartizione, cioè appunto ancora una volta le più giovani generazioni. Cioè, insomma, è un simbolo quel tavolo che accomuna oramai tutti i sindacati e tutta la politica, dall'estrema destra all'estrema sinistra, di un paese che di fronte, lo vedremo, al consolidamento della sua ripresa già si spartisce deficit e debito in più. Il solito problema. E mi dispiace, non vedo eccezioni a quel tavolo. Non c'è un atomo politico che dica: ma che cos'è questa roba? Ma stiamo scherzando? Non c'è un straccettino di rappresentanza politica che obietti a questa maniera di far debito per gli altri, dicendo che è giustizia sociale. Sono minoranza, torniamo tra un minuto. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! No, me la segni proprio. Non vi preoccupate. Ed eccoci, è tornati. Sì. Inizia il nuovo ciclo dopo con un Mario Seminerio che ci indicherà il più 2, il più 3, il più 4, il più 5. L'ascesa. Lo vogliamo? Mario Seminerio, più ottimista di Marco Fortis. Questa è la sfida. Non esageriamo, ragazzi, c'è un tema di inflazione delle attese. Vabbè, al di là del mio scherzo. No, il dato dell'estate, come sapete, è il fatto che c'è un PIL in accelerazione, ma non è solo quello italiano, bensì tutto quello dell'Eurozona, visto che siamo ai massimi da 8 anni o giù di lì. Il PIL italiano è nel secondo trimestre più 0,4 e più 1,5 il tendenziale. Benissimo, abbiamo già una crescita acquisita per il 2017 dell'1,2%, ottimo. Non ci faremo la legge di stabilità perché la legge di stabilità ha i suoi buchi che esondano, quindi non illudetevi. Cercate anche di non dare retta a chi vi dice il turismo spingerà il PIL italiano quando vedremo i consuntivi. Non funziona così. Poi vi spiegherò anche il motivo. Però io volevo segnalare che resta un problema di fondo, cioè abbiamo una crescita del PIL nominale che resta insoddisfacente, perché il nostro tendenziale reale 1,5, nominale 1,7. Certo. E quindi vuol dire che abbiamo avuto un deflattore che con gli arrotondamenti è stato 0,3, in realtà è stato più 0,2. Certo. Questo vuol dire che, ancora una volta, l'Italia ha un problema, cioè la crescita nominale insufficiente per riuscire a piegare in maniera consistente e confortante il rapporto debito-PIL. Io ieri, visto che mi stavo preparando i compiti, diciamo, a casa per oggi, sono andato a guardare un po' di numeri spagnoli, perché visto che noi abbiamo leader dell'opposizione, certo, che si ispira alle politiche sociali e vanno nei consessi globalisti, diciamo, a dire che il loro modello è Rajoy, perché ha portato il deficit al 5%, non lo ha portato. Portare vuol dire innalzare, quello è calato sia in maniera assoluta che corretto per il ciclo economico e il PIL strutturale. Quindi primo punto è quello. Poi, se qualcuno dei lor signori guardasse cos'è stata la riforma spagnola del mercato del lavoro del 2012, probabilmente non andrebbe in giro a dire stronzate del tipo Rajoy è il nostro modello. Chiusa parentesi. Però, oppure ce lo diano. Ma non so, vedete voi, però la realtà, come al solito, sta altrove. Quello che a me ha colpito dei conti spagnoli è il fatto che loro hanno un deficit primario, cioè hanno la tassazione che è inferiore alla spesa pubblica, mentre noi ricordiamo mentre noi siamo in avanzo primario da mille anni. Qual è il segreto del successo spagnolo? No, siccome c'è questa querelle anche sui social, non è vero che la Spagna ha fatto austerità, allora io sono disponibile ad accettare la tesi, non è vero che la Spagna ha fatto austerità. Benissimo, però io ho guardato i grafici, perché ogni tanto mi capita, e la cosa che mi colpisce è che la Spagna sono molti anni che la spesa pubblica spagnola cresce in valore nominale meno del PIL nominale. Ecco perché, questo è l'arcano, l'incidenza della spesa pubblica spagnola sul PIL è passata dal 48% del 2012 al 42,5% dell'anno scorso. E quindi non crescono per la spesa pubblica, fammi capire. No, ma il PIL, o hanno una spesa pubblica che è fottutamente efficace, perché ogni volta che questi mettono mano alla spesa pubblica il PIL si impenna e noi dovremmo mandare una missione in Spagna a capire come diavolo fanno, oppure c'è un altro motivo. Ribadisco, non sono qui a sostenere la tesi che la Spagna ha fatto austerità, però dobbiamo capirci, perché le loro metriche sono migliori delle nostre, perché il loro PIL nominale cresce sistematicamente a passo di carica. Quindi questo ce lo dobbiamo spiegare. La loro spesa pubblica o è più efficace della nostra o hanno un impatto moltiplicativo migliore del nostro. E questa è la domanda che mi pongo e vi pongo. Eh sì. Quindi quella la dobbiamo sul mix valutare di spesa pubblica, secondo me questo è il punto fondamentale, per così dire. Rapidissime pile da alcuni dei nostri ascoltatori. Alcuni dicono: Valtagabbana, avete detto per anni che andava tutto male e adesso vi è data storta perché le cose vanno meglio, vi devono premiare perché siete degli ipocriti, Valtagabbana. Ecco, questo è l'effetto di spiegarvi che c'è una ripresa che si sta consolidando, esogena, dovuta solo all'andamento dei mercati, perché in realtà Trump il terremoto non riesce a farlo, per esatto, così dire. Per quanto si sforzi. Per quanto si sforzi, non riesce a farlo. Per il momento anche la lotta tra sunniti e sciiti, per il momento non riesce a ottenere che il costo dell'energia faccia altro che tenere verso il basso l'andamento dei costi delle materie prime. Ecco, in questo rafforzamento internazionale della crescita c'è l'Italia che ne beneficia, e ne beneficia, e in questo basta vedere qual è la componente domanda estera e domanda italiana per capire che continua a essere così. Quindi, come vedete, siamo del tutto coerenti a quello che abbiamo detto da tempo, perché da tempo Mario vi diceva si consolidano i dati internazionali e in quel quadro ci sono anche quelli italiani. Nessun Valtagabbana, invece c'è chi dice che è molto felice di ascoltarci, addirittura qualcuno che dice che bisognerebbe fare come Jurassic Park, riprendere in vita pezzi del DNA di Ugo La Malfa e Corrado Anifito. Tu lo sai che sono un vecchio repubblicano, caro Andrea, per questo mi vuoi parlare? No, non è possibile. C'è bisogno di nuovi, anche perché i tempi di Andrea di Ugo La Malfa sono passati e a propria volta non sono riproponibili. Sbagliava anche lui, insomma, non voleva la televisore a colori, adesso non vorrei dire. Esatto. Ma c'è bisogno, noi speriamo che qualcuno torni a farci interessare con la rappresentanza della politica. Per esempio, il professor Alberto Canavale Maffè, chi vi dice che non diventerà un tonitruante leader del populismo di mercato invece che dell'antipopulismo di mercato? Che roba è? Magari, magari succede, magari succede, il neoliberismo. Magari succede. Comunque, insomma, questa spieghiamolo appunto, Mario. Sbaglio a dire che la nostra è una ripresa che resta al di sotto di quella dei nostri partner, ma i cui traini stanno fuori. Non lo so, forse è meglio ripeterlo. I numeri sono quelli. Io resto della mia idea. Questo è un paese che ha una crescita potenziale che è nei dintorni dell'1%, magari un po' sopra. Punto. Ci sono motivi demografici, ci sono motivi appunto di struttura sociale, sarebbe bello, utile e comodo crescere di più. Allo stato attuale non cresciamo. Poi noi dovremmo fare il discorso, visto che continuano a farcelo a sushi una volta al mese, su è stato il Jobs Act, e però nell'ultimo anno, sulle medie dell'osservatorio IMSS sulla precarietà, perché il 20% dei posti di lavoro sono a tempo indeterminato, il 20, cioè quel dato continua a calare. E io non riesco a capire in che aspetto c'entri il Jobs Act con questa ripresa ciclica dove le imprese tendenzialmente si affidano al tempo determinato perché è più flessibile, ancora più flessibile del Jobs Act come istituto contrattuale. Poi dovremo fare un cazzo di tagliando a sto Jobs Act prima o poi. Qualcuno lo farà? C'è anche una questione in questo periodo, te lo dico per esperienza perché l'abbiamo fatto anche noi, che c'erano un po' di attese sulle nuove decontribuzioni e quindi molti hanno tirato sul piede. No, non hanno tirato sul piede, cioè onde evitare, siccome poi spesso ti capita quando assumi le persone, perché viva Dio ci sono ancora aziende che assumono, certo. La mia ad esempio, siccome ti capita molto spesso che tu assumi la persona poi dopo un mese ti fanno la legge di decontribuzione. Adesso, sapendo che c'è in ballo cosa qua della decontribuzione, tutti sono in attesa di capire prima di ripartire. Tutti sono fermi e non stanno assumendo nessuno a tempo indeterminato. Del resto, la logica dei bonus a tempo pretende questa interlocuzione a strappi, per così dire. È un po' come quando fai le rottamazioni. Crei delle aspettative di mercato, il mercato si muove in quella situazione e poi agisce quando sa esattamente cosa succede. Allora vediamo a gennaio cosa succede. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta, 10:33 primi e 18 secondi, la squadretta dei conti della belva. Mario. Carlo Alberto. Renato. E fino alle 11 ci interroghiamo, questa è parte dell'iniziativa congiunta di Renato Cifarelli e di Carlo Alberto Canavale Maffè, proprio a seguito del segnale di consolidamento della ripresa italiana. C'è la voglia di capire un po' meglio, articolare in una maniera non i soliti numeretti, da parte vostra. Cioè un imprenditore, un consulente di impresa, oltre che professore universitario, far arrivare qualche segnale più materialmente profondo di che cosa vedete e si vede nelle scelte che stanno facendo in alcuni settori, le imprese italiane, eccetera, che tipo di persone mostrano di avere bisogno, perché stanno facendo che cosa, caro Alberto? Come hanno imparato a usare la rete? Perché a volte sembra quasi proprio di no. Al di là di tante chiacchiere. Tema sollevato spesso da Renato. Allora io dico, noi partiamo da una condizione spesso, nell'informazione pubblica sui dati dell'impresa, il prodotto industriale perso, eccetera, eccetera, che è questa. Ecco, cioè, per capire, mi sbaglio Renato, non è un po' così? Ma, sai, il problema è che da un sacco di anni ci sono ogni tanto dei bivi, ce n'è stato uno secondo me un paio di anni fa e spesso quella che sembra la strada più comoda è la strada che ti porta poi al burrone, mentre invece la strada più impervia, come spesso accade, è quella che è la scorciatoia o che ti porta di nuovo sulla retta via. Molto spesso io ho l'impressione che ci sia in giro un feeling su quella che è l'azienda, su quello che sono le aziende italiane in questo momento, completamente avulso dalla realtà. Nel senso che secondo me ci sono un sacco di aziende che vanno benissimo, sono leader di mercato e sono molto brave, che non vengono valorizzate nel modo adeguato. Almeno, poi Carlo Alberto che fa il consulente, perché io conosco... Aspetta, una domanda da ignorante, non vengono valorizzate da chi e perché? Allora, non vengono valorizzate nell'opinione pubblica, nel senso che molto spesso l'impressione mia è che l'azienda venga ancora vista come quella roba buia dove c'era quello col martello in mano che batteva sul ferro per fare il ferro di cavallo, mentre invece oggi io vedo, quando porti le persone magari in azienda... si guardano intorno e dicono: ah, ma è tutto in ordine, è tutto pulito. E cosa pensavi, che fosse un'azienda del 1840? Però significa un gap di percezione e di cultura di 30 siamo anni stati, cioè, siamo stati da aver paura. Allora, come associazione degli imprenditori, e lo dico perché ne ho fatto parte per un sacco di anni, ne ho fatto parte per un sacco di anni, benché sia l'editore, lo dico lo stesso, siamo stati incapaci di fare vedere come l'industria si è trasformata. Siamo rimasti troppo spesso su quella parte che è sempre stata forte, che è quella sindacale, no? E siamo stati incapaci di dire che le aziende si erano trasformate, sono una cosa completamente diversa dalla percezione che magari molti ne hanno. E però questo spiega non solo però il gap percettivo, cognitivo, anche il fatto che poi non siete stati capaci di spiegare alla struttura paese di come evolveva il tipo di profili, di competenze, di skills di cui avevate bisogno. Carlo Alberto, questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo anche un ospite collegato, che è direttore commerciale di Adecco Group, che è un'azienda leader mondiale nei servizi dedicati proprio alla gestione delle risorse umane, all'incrocio quindi tra ciò che le aziende serve, ed è cambiato dal tempo che cosa serve, e la domanda è se siamo in grado poi di costruirle queste competenze nel nostro paese. Aspetta, salutiamo il nostro ospite Andrea Siletti, grazie di essere con noi questo sabato mattina. Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori. Posso fare una battuta? Hanno fatto il lavoro che avrebbero dovuto fare gli uffici provinciali del lavoro. È così, però noi non abbiamo ancora una risposta a che tipo di politiche attive fare del lavoro rispetto ai vecchi centri dell'impiego, perché siamo a un anno dal 4 dicembre, tra un po' è dal referendum, e da quel punto di vista mi dispiace, perché sono amico del presidente del che è un avvocato d'impresa come formazione, a cui il governo Renzi affidò il compito di disegnare queste politiche attive per l'impiego, però per il momento che Alberto si vede poco. Allora, i segnali di questa riflessione nuova di ciò che serve alle imprese, Carlo Alberto, che tu vedi, quali sono? Ma abbiamo invitato Andrea anche per questo, perché Andrea insieme ai suoi colleghi vedono centinaia di migliaia di spostamenti e allocazioni di posti di lavoro. Prendo due dati che mi ha dato proprio Andrea ieri: il numero di somministrati in Italia circa 340.000, le previsioni sono per un raddoppio entro 3 anni, cioè stiamo parlando di arrivare quasi a 700.000. Spiega un secondo cos'è il lavoro in somministrazione, non diamo per scontato che ti ascolta. No, certamente, magari lo spiegherà meglio Andrea. Diciamo, è una formula di erogazione del lavoro in cui un'azienda, per esempio appunto l'Adecco, si fa carico del rapporto legale di organizzativo con il dipendente e poi ne somministra le prestazioni all'azienda che fa richiesta, con certi vincoli di volume, di durata e ovviamente organizzativi. Magari poi Andrea darà i dettagli specifici. Noi, per esempio, che abbiamo un lavoro molto stagionale sulle macchine di raccolta, da anni abbiamo alcune persone, in qualche caso anche parecchie rispetto a quello che è la struttura aziendale, proprio per coprire i picchi di lavoro. Quindi l'idea di invitare Andrea è anche quella di avere un termometro sotto tanti settori di questo cambiamento. Quindi, e io comincio subito, secondo me è una ripresa a forbice. C'è un pezzo di industria italiana che ha fatto una profonda ristrutturazione tecnologica, organizzativa, non ancora, se volete, informatica, ma elettronica sì, ecco, magari un passo prima di Inter, ma sulla meccatronica i numeri sono chiari. E un altro pezzo d'Italia che invece non cresce. Quindi il risultato, la media che vediamo, caro Mario, è una media che è divaricata, con una produzione industriale nettamente dinamica, tra l'altro anche leggermente sopra la media europea, sì, e una produttività del settore pubblico dei servizi di base bassa. Chiedere ad Andrea, quindi, a questo punto la domanda è: che cosa manca al consolidamento di questa struttura, di questa ripresa strutturale? Secondo me manca il capitale umano. Secondo me l'Italia ancora una volta ha fatto l'errore che ha fatto negli anni 90, cioè cedere nel capitale fisso, nel capitale, diciamo, infrastrutturale, e il meccanismo di formazione interna alle imprese, di educazione pubblica, non sta producendo la benzina fondamentale, Oscar, per rendere questa crescita strutturale. E quindi chiedo ad Andrea una impressione qualitativa e, se può, anche quantitativa di questa Italia che sta riprendendosi, tant'è vero che stressa Andrea e il suo team perché non trova le risorse giuste, no? E d'altra parte gli scarica contraddizioni, penso al sistema bancario, penso al retail, no? Dove invece lì c'è l'esposizione. Quindi Andrea, un commento tuo su questa ripresa, quanto è strutturale e quanto il capitale umano interviene? Buongiorno a tutti e buongiorno ai vostri ascoltatori. Quello che noi stiamo misurando dal nostro osservatorio, che è preciclico, quindi noi anticipiamo poi quelli che sono i dati statistici che voi avete commentato fino ad oggi, non è partita il mese scorso. Noi stiamo misurando crescite molto significative, stiamo parlando di crescite anno su anno superiori al 20% ormai dalla fine dell'anno scorso. I settori nei quali stiamo misurando crescite importanti lasciatemelo dire, per certi versi impreviste, sono i settori storici e i segmenti storici in cui l'Italia è forte. Quindi stiamo parlando, da un lato, dell'automotive, il settore metalmeccanico, e vediamo in questo momento sul mercato un incremento dei fabbisogni di flessibilità, e poi vi dirò anche che questa flessibilità in un terzo dei casi diventa stabilità diretta in capo alle aziende, soprattutto nel segmento delle medie aziende italiane. Alla fine del 2016, dal nostro osservatorio, abbiamo visto un'impennata del fabbisogno di lavoratori somministrati che imputavamo per certi casi alla ricostruzione della flessibilità all'interno delle aziende, che sicuramente il Jobs Act, se un effetto l'ha avuto, è stata quella di stabilizzare molti lavoratori flessibili che collaboravano con i nostri clienti. Ma a distanza di mesi oggi notiamo a tutti gli effetti non più una ricostruzione della flessibilità, ma un vero e proprio fabbisogno continuo e abbastanza strutturale da parte dei nostri clienti. Quello che misuriamo sul mercato però è ancora un'incertezza. È un'incertezza perché la durata delle nostre missioni, ossia la durata dei nostri contratti, che sono composti evidentemente anche da proroghe, non è aumentata. Quindi, se da un lato il nostro settore sta crescendo oltre il 25%, dall'altra la durata delle missioni presso i nostri clienti è ancora ferma sui 60 giorni. Quindi le imprese hanno un grande fabbisogno, ma in questo momento sono ancora timide nel buttare il cuore oltre l'ostacolo e allungare sicuramente le missioni. Quali sono i fabbisogni che stiamo notando? Ma innanzitutto noi come settore siamo fortemente esposti nel mondo dei blue collar, quindi oltre il 70% dei nostri lavoratori operano nelle nostre fabbriche, e in questo contesto ci stanno chiedendo sempre di più e continuamente non solo operai generici, che ormai riescono a dare un apporto di produttività sempre minore all'evoluzione tecnologica che Carlo Alberto stava descrivendo, ma sempre più operai specializzati, e in assenza in intere aree del paese della disponibilità di avere una manodopera qualificata, si punta su titoli di studio più elevati. Quindi nel settore automotive quello che vedo negli ultimi anni è che si passa da chiedere lavoratori con licenza media a chiedere esclusivamente lavoratori con un titolo di studio medio tecnico. E quello che notiamo in fase di approvvigionamento di figure skillate, quindi che riescano anche a seguire la trasformazione tecnologica della fabbrica, anche importanti investimenti in termini di formazione. Dal nostro osservatorio però notiamo anche un altro dato, che non solo sta crescendo in modo importante la flessibilità, ma stanno crescendo anche i contratti a tempo indeterminato, perché ci occupiamo anche di attività di ricerca e selezione. E sulla ricerca e selezione, soprattutto anche sui blue collar, attraverso le nostre filiali, stiamo crescendo a ritmi pari se non superiori a quelli della somministrazione. Quindi la mia sintesi è che in questo momento le imprese stanno lavorando intensamente, e vi dico anche che dalle prime analisi del mese di agosto abbiamo avuto sì un flesso, ma un flesso non paragonabile a quello che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni, ma quello di cui sostanzialmente stiamo ancora misurando è anche un cambiamento nel settore dei servizi, nello specifico ad esempio nel settore della logistica. E la logistica si sta trasformando. E lì l'e-commerce perché... è arrivato però, Andrea, diciamoci la verità, è arrivato e sta come un elefante nel negozio di cristalleria, sta sconvolgendo i processi di logistica, guidato proprio dalla domanda. Magari un commentino su questo mi interessa. Questo è una trasformazione, senza fare nomi, è chiaro che in questo momento in Italia stanno arrivando player che sono definiti player commerciali internazionali, ma alla fine sono aziende logistiche, perché fanno della consegna dei beni di consumo a casa dei clienti il loro punto di forza, oltre a quello della leva dei costi e quant'altro. Quindi in quel settore ad esempio stiamo notando una trasformazione anche di modello. L'Italia è il paese dell'appalto spurio, in molti casi di un utilizzo di cooperative di basso livello. Ecco che oggi i grandi operatori internazionali non accettano più quel tipo di struttura organizzativa, e quindi stanno rinascendo grandi operatori logistici che si fanno carico anche della gestione, ma anche del rischio della gestione appunto del proprio business. E su questo è una novità, diciamo, dell'ultimo anno e mezzo fondamentalmente. Sul fronte invece del retail, delle vendite, ecco un cambiamento invece che ormai va a consolidarsi. Oggi si cerca la customer experience nel retail, e quindi si cercano profili molto differenti rispetto al passato. E poi chiaramente c'è tutto il mondo digitale. Ecco, e di lì ripartiremo, però tra un minuto torniamo, perché abbiamo un minuto di pausa di servizio. Chi cambia canale vuole il cannone in bolletta. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Fratelli d'Italia. L'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in studio con i quattro compagni dei conti della belva: Oscar, Mario, Carlo Alberto, Renato. Ed è con noi Andrea Siletti, direttore commerciale di Adecco Group, che è un'azienda mondiale nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane. Ci ha spiegato un po' tutto quello che si vede da tempo oramai, cioè da mesi e mesi, da trimestri, nelle richieste delle imprese italiane, e questo spiega quindi il rafforzamento che è in atto. Però tra i nostri ascoltatori, Siletti, resta sempre una domanda. Io l'ho visto tutta la settimana quando ho parlato da diversi punti di vista della questione dell'università, in corso il numero chiuso delle materie letterarie a Milano, gli scioperi dell'appello autunnale dei professori. Quando si tocca il punto, come lei ha anche ritoccato, del fatto che ci sono profili tecnici, cioè di perizia industriale, che le imprese non riescono a coprire, ma di cui hanno bisogno come specializzazione e qualifica, le loro piante organiche, tanto più adesso che si riprende, molti dei nostri ascoltatori dicono: no, questo non ci crediamo. Un conto sono gli ingegneri, che non se ne fanno abbastanza in Italia rispetto a quello che circola l'impresa. Ma voi ci volete respingere a rimandare i figli agli istituti tecnici, perché volete fare le scuole dei, tra virgolette, poveri. Allora, siccome puntualmente ci sono ascoltatori che hanno mandato sms su questo, Siletti, la domanda di profili tecnici, cioè di periti, è vera o ce la stiamo inventando? Siletti, che dice? Domanda verissima, domanda del mercato verissima, alla quale molte aree del paese non riusciamo a far fronte. Non riusciamo a far fronte per vari motivi. Il primo motivo è l'abbandono, nel senso che molti diplomati di istituti tecnici non proseguono con una storia lavorativa coerente con il loro profilo di studi. E su questo stiamo lavorando con la scuola. Noi siamo presenti con un progetto che si chiama tecnicamente in più di 100 istituti tecnici superiori. Prendiamo in carico insieme alle aziende, perché non andiamo solo noi, portiamo i direttori di produzione, con degli obiettivi molto chiari, spiegare ai ragazzi che all'interno di un percorso tecnico in fabbrica ci può essere un successo personale, professionale e, perché no, anche di tipo retributivo. Assolutamente. Diciamo che era qualche numero sugli stipendi di questi operai specializzati, no, che è un numero che è comparabile ai livelli europei. Mentre eravamo in pausa io avevo fatto la battuta ad Oscar e avevo detto, siccome lui anticipava la domanda, ho detto bisognerebbe che gli facessimo vedere quelli che sono gli stipendi degli operai specializzati tecnici e quelli che sono gli stipendi degli impiegati generici. Certo. Allora forse poi capirebbero che i poveri oggi sono gli impiegati generici. Bisogna farglielo vedere, perché l'orientamento alle famiglie si fa così. Quindi l'appropriazione tecnica non è un'appropriazione da poveri, però non è ancora un'appropriazione adeguata. In questo senso, Andrea, concludi il discorso. Che cosa devono fare scuola, imprese e organizzazioni come la vostra per aumentare l'offerta di capitale umano qualificato? Non parliamo di webmaster, ce n'abbiamo già abbastanza, in politica. Guarda, parliamo di gente che sappia far funzionare macchine, linee produttive, sensori. Questo è vero, Andrea? No, qua noi stiamo parlando del ferro, non stiamo parlando del digitale, stiamo parlando tra l'altro di profili dedicati ad aziende medie italiane. Sto parlando del Veneto, sto parlando della Lombardia, che in questo momento ci sta chiedendo tantissimi profili tecnici. Quello che ti facevo come battuta l'altro giorno: noi dobbiamo scalzare il ruolo delle mamme, delle fidanzate, dei nostri futuri periti all'interno delle scuole, perché non c'è consapevolezza di percorsi di carriera, di percorsi retributivi, ma poi c'è un'altra dinamica che gli imprenditori conoscono benissimo: non è in molti casi possibile sostituire alcune figure tecniche all'interno delle loro organizzazioni, perché acquisiscono delle competenze talmente specifiche di nicchia nel nostro paese manifatturiero che li rendono insostituibili e diventano i veri talenti attraverso i quali fanno la produttività e fanno la differenza sul mercato. Quello che noi stiamo vedendo è sicuramente una scuola che è cambiata. Io incontro quasi tutti i mesi dirigenti scolastici che ci chiedono aiuto, dirigenti scolastici che vanno oltre il loro ruolo lavorativo e lavorano con i loro studenti per cercare di garantirgli quella occupabilità, perché oggi noi parliamo molto di non occupazione, ma di occupabilità, ossia quel fattore che rende il lavoratore assicurato nel suo percorso lavorativo attraverso le sue competenze. Un altro aspetto di cui non avete parlato non sono solo le competenze tecniche, ma sono anche i soft skills, perché organizzazioni grandi e medie necessitano sempre di più di collaboratori che abbiano competenze soft, ossia in modo molto chiaro capacità di problem solving, capacità di avere una mobilità sia geografica che professionale, ma soprattutto capacità di lavorare in team e di creare valore attraverso queste modalità. Questo è quello che stiamo vedendo. Sicuramente vediamo dei risultati, perché quando ai ragazzi gli si fa spiegare dai direttori di produzione che il mondo della fabbrica non è più quello che vediamo in alcuni film o è raccontato dai loro padri, ma è qualcosa di molto pulito e li portiamo a vedere le fabbriche con la linea e col kaizen, in cui si lavora con il camice bianco e per terra è tutto pulito, è evidente che i ragazzi capiscono e ci seguono. In questo contesto abbiamo notato anche un grande incremento del numero dei tirocini, ma tirocini veri, tirocini che sboccano tutti in un contratto molte volte a tempo indeterminato. In questo contesto quello che manca è invece il rilancio del contratto tipico, che dovrebbe creare quelle professionalità. Io sto parlando dell'apprendistato. Ma l'apprendistato è stato da una parte bypassato dall'effetto dei bonus a tempo molto consistenti del Jobs Act, da una parte. Dall'altro ha sempre vissuto qualche difficoltà, per così dire, stante che il canale dell'alternanza scuola-lavoro, quello potenziato dalla buona scuola, ma secondo me potenziato ma in forma semplicemente non risolutiva, 200 ore, 400 ore l'anno, hanno creato degli ostacoli. Speriamo di risolverle, ma resta il problema: le imprese sono capaci abbastanza bene di usare la rete? Ci torneremo con Adecco, Renato e Carlo Alberto nelle prossime puntate. Intanto, giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Della belva. Ed eccoci qui, tornati in studio con i compagni dei Conti della Belva, Mario, Carlo Alberto, Renato e Oscar. Sembra qualche telefonata sui temi che abbiamo toccato fino a questo momento, e magari anche Mario spulcia un secondo tra gli sms con il parere delle nostre opinioni. Intanto cominciamo con le telefonate con Paolo che ci chiama da Pavia. Paolo, prego. Sì, buongiorno, buongiorno in particolare al professor Carnevale Maffè, mio masterizzante. E io adesso dirigo un'azienda metalmeccanica, una PMI. Devo dire, è verissimo che non trovi persone in grado di gestire la meccanica, l'elettronica, tutto quello che c'è da fare delle macchine oggi, è molto difficile, soprattutto a livello intermedio. E devo dire che la stessa difficoltà che incontriamo, la incontriamo nel lavorare con persone che pensano in modo digitale, non necessariamente fare commercio su internet, ma pensare che oggi la realtà, una parte pesante della realtà passa di lì, no? E quindi è tutto un lavoro che va fatto quasi in modo da inventore all'interno delle aziende, perché non hai supporto esterno. Questo pesa veramente anche sui bilanci, e poi sono costi pazzeschi di innovazione rilegata alle PMI. Conoscendo la zona, ma dirigi un'azienda del Pavese o lavori a Milano? Nel Veneto. Ah, ok. Veneto. Intanto ti ringrazio per aver chiamato, perché diamo il segnale che nella mia università non si formano soltanto fighetti della finanza, ma solide figure dell'industria che tengono in piedi il paese nella parte, secondo me, più interessante, più sfidante, che è proprio il nord-est. Ti chiedo però a questo punto, come possiamo rendere un po' più sexy, fammi dire, le nostre imprese? Perché il tema che diceva Andrea e anche Renato è non stiamo facendo marketing ben fatto sul fattore capitale umano. È difficile, lo sai bene perché sei stato da noi, vendere impresa industriale nei contesti universitari e spesso anche nei contesti della scuola superiore. Sei d'accordo che dobbiamo migliorare su questo? Ma sì, ma dal mio punto di vista, io arrivo dalle vendite, dal marketing, quindi comunque un'altra estrazione rispetto all'ingegnere o al finanziario, ma dal mio punto di vista, quello che oggi fanno le nostre imprese, medie, grandi ormai anche, è creare dei prodotti tecnologici concreti, incredibili. Io non voglio dire meglio dei tedeschi, peggio dei tedeschi. No, dillo pure. Ma incredibili, nel piccolo come nel grande. Ma noi pensiamo alla 500, come pensiamo a un'impastatrice fatta in un'azienda, diciamo, del nord-est, dove tu hai le migliori performance al mondo. E devi saperlo fare, cioè non è che ti sporchi le mani nel grasso, ma le sporco di più io quando vado in officina, che sono le persone che lavorano lì. Questo è un ottimo esempio, e oggi è così davvero, spiegarlo alle famiglie che sono restie a mandare i figli verso gli indirizzi tecnici della secondaria, e bisogna usare proprio esempi così, secondo me. Anche perché l'industria torna dall'est e torna da noi, è un'industria diversa, con processi diversi, certo, camice bianco, pulizia, dati, ma bisogna tornare ad amarla. E grazie. Cervello, tanto cervello. Grazie allora a Paolo, grazie. Che ci chiamava da Pavia, Paolo. Luigi che ci chiama dalla provincia di Vicenza, abbiamo evocato il nord-est e noi gli ascoltatori lì ce l'abbiamo come. Luigi, prego. Ho sentito che parlavate sempre per... Di creare ragazzi, eccetera. Sì. Ma finché la politica non smette di mangiare soldi e riducono le tasse sull'apprendistato, gli apprendisti saranno sempre pochi. Sempre pochi. E il punto è che quello che è avvenuto quando stavamo chiudendo prima della pausa del giornale radio, l'effetto di contribuzione ha marginalizzato l'apprendistato, proprio certo, paradossalmente, esatto, per sì, questo sì, perché è diventato meno conveniente farlo, ecco, sì, quando quello dovrebbe e essere un po' di cecità delle imprese, che certo, se l'apprendistato ti devono anche mettere testa, non soltanto soldi, certamente. Attenti che l'apprendistato è un impegno organizzativo, e io torno sempre a dire, prima di lamentarmi dei politici, di cui, come dire, qua i Conti della Belva non è che siamo proprio generosissimi, abbiamo in azienda, Renato, confessati, abbiamo in azienda processi rigorosi, tempo e testa per dedicare alla presenza, uno dei più grandi investimenti organizzativi che un imprenditore può fare. Ma noi non lo usiamo per scelta, proprio per quello, perché l'apprendistato presuppone un percorso di un certo tipo e farlo per gruppi di persone, secondo me, ha un senso. Ha senso, una per una è difficile. Per uno per uno diventa molto difficile e molto ma costoso. Ma tant'è che secondo me, in molte filiere, laddove l'iscritto medio è un associato, sto parlando delle Unioni Territoriali di Confindustria, è un associato con un fatturato di qualche milione di euro, insomma, qualche decina, ecco, ma non troppi. In questo caso, la struttura organizzativa di appoggio per l'apprendistato professionalizzante, con l'iscritto di quella classe dimensionale e di quel peso finanziario, è l'associazione che dovrebbe farlo. Ah, sì, sì, sì. Cioè, è la maniera migliore e più avanzata, sì, dovrebbe essere di dare un pool, senso alla struttura associativa. È esattamente, l'apprendistato professionalizzante è proprio l'esempio di come bisognerebbe farlo, secondo me. È vero, è vero. No, anche perché ci sono molti skills trasversali, quelli di cui parlava prima Andrea, quelli, diciamo, di tipo di team building, eccetera, eccetera. Problem solving, che sono trasversali. Vogliamo, cioè, dire che Industria 4.0 non è far lavorare macchine automatiche, ma far parlare tra di loro processi, no, esatto, interni e esterni all'azienda. Ma intanto capire i processi. Allora, sentiamo Luca che ci chiama da Torino. Luca, prego. C'è ancora Luca? Sì, buongiorno. Eccoci qua, Luca, prego. Sì, buongiorno. Sì. Io lavoro in un'azienda multinazionale, tra quelle che hanno scritto un po' le linee guida della Industry 4.0, sì, evitando di fare nomi. Lavoro nell'area torinese, soprattutto nell'automotive, aziende da 50 milioni di fatturato in su. Io quello che noto spesso è, intanto, se posso permettermi, un'incapacità da parte dei dirigenti o comunque della direzione generale di comprendere bene che cos'è Industry 4.0 e che cosa significa nei loro processi. E parlando invece del personale, nel momento in cui si trova un'azienda disponibile ad investire in questa direzione, le persone hanno una paura folle del cambiamento, che ci sta da una parte, ma fanno una reticenza, anche una, come dire, la resistenza tra le ruote, che io dico, in tempi come questi, sei in un'azienda che sta investendo in questa direzione e quindi significa anche formazione per te, ma anche solo in termini di curriculum, ma non ti converrebbe invece, non stiamo parlando di persone prossime alla pensione, stiamo parlando di persone che stanno tra i 25 e i 35 anni. Eppure, cioè in quella fascia... È preoccupante se Dio, 25... In quella fascia d'età. Rimandamelo che gli facciamo uno shampoo, va che... E se posso aggiungere ancora un commento, l'altra cosa che fa veramente rabbia, facendo un parallelo con i tedeschi, che sono sempre presi a riferimento. E loro, finché stanno sul binario del processo, che studiano molto bene, vanno come dei treni. Appena c'è il problema, spesso si inchiodano. E 9 volte su 10 le aziende nostre, che lavorano anche con le aziende tedesche, sono quelle che il problema lo risolvono a schiocco di dita. Peccato però che poi chi fa strada è il tedesco, anche proprio nell'opinione pubblica, e invece l'italiano rimane quello che viene coinvolto nel momento in cui c'è un problema e nessuno sa come fare. E l'arte di arrangiarsi. Esatto, a quando prima dicevate che siamo poco visibili o abbiamo un po' perso il treno di essere, come dire, leader anche da questo punto, anche da questo punto di vista. Quindi è un però Luca, sì però senza esagerare, perché io ripeto, rimangono sempre tutti a bocca aperta quando io ricordo che, per esempio, nel flusso degli investimenti diretti esteri Italia e Germania, se andiamo a vedere gli stock storici accumulati, lo stock di investimenti diretti esteri di imprese italiane nel controllo o nella partecipazione di imprese tedesche ammonta, dati ufficiali a fine 2016, a 35 miliardi di euro rotti. Invece il dato contrario, cioè lo stock di investimenti diretti esteri di imprese tedesche nella partecipazione o controllo di imprese italiane, sono neanche 22 miliardi. Quindi vuol dire che in realtà un noi storicamente perché Ducati la vende. Ci siamo dati da fare e come, per così dire. Ma poi, quindi non ci stanno colonizzando, come sta no, cosa? Ecco, non arrivano ai giornali italiani, questo dato qua non c'è verso di farlo scrivere. Però è un dato ufficiale, mica me lo invento io. Come un dato ufficiale che ci sono più imprese straniere controllate da imprese italiane che imprese italiane controllate da imprese straniere. straniere, cioè ce ne sono 23.800 all'estero controllate da 11.000 italiane, e qui ne abbiamo 11.000 italiane controllate da 8.000 straniere. Noi abbiamo 1.500.000, quasi 1.600.000 di dipendenti stranieri da imprese italiane, qui ce ne sono 900.000 da imprese straniere in Italia. Anche questo dato i giornali lo scrivono, perché è più facile dire la svendita italiana, Fincantieri, la scuola pasta in testa con Fincantieri, eccetera. E comunque stiamo crescendo ancora anche in quota. Quando l'ascoltatore diceva che gli italiani hanno una reputazione magari non così forte, vero, ma nei settori dove invece flessibilità, adeguamento e velocità contano tantissimo, su tutta l'automation siamo fortissimi, siamo più forti di te. Ti ho mandato i dati di Ucima, abbiamo recuperato quali livelli, li stiamo sorpassando. E ero a Düsseldorf, la più grande fiera mondiale, perché le fiere le fanno da loro, Satanassi, hanno cominciato decenni e decenni fa e le nostre Sacmi, le nostre Coesia stanno andando come dei razzi. Loro ne fanno una di fiera, noi ne facciamo cinque. Lo so, è quella come la solita storia, per lì era le vocazioni territoriali, la politica, i trombati dell'impresa e dei partiti, perdonami, perché questo è il fenomeno fiera in Italia, ed ecco la proliferazione. Quelli si sono specializzati per filiere e sono andati in Asia 20 anni prima di noi. A proposito di trombati, hanno tagliato un po' di camere di commercio. Meno male. Torniamo tra un minuto. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Lo so, ma non lo dico. Ecco, è una sigla. No, siamo alle avanguardie del rock. Dobbiamo, Oscar, storica della nostra. Per la prossima volta voglio la diretta Facebook con te che balli. Non voglio sentire. Lo sapevo che i nostri compari non avrebbero accettato questa sigla. Meraviglioso, bellissimo, storico, era bellissimo vederti ballare. Casello degli anni 70 con questa bimbetta con il vestitino e il dicevo che dice io lo so, ma non lo dico. Ecco perché. Perché noi vogliamo fare una riflessione sul consumerismo. Adesso noi diciamo intelligente, non perché siamo noi intelligenti e altri cretini. C'è un consumerismo che dice sono le imprese che colludono un nemico e quindi viva lo Stato, e c'è un consumerismo che dice no, il mercato serve all'empowerment del cliente finale se è fatto in trasparenza, e cioè evitando la simmetria, che è una tendenza inevitabile del mercato, perché la simmetria tra chi propone le cose e chi le compra purtroppo è il grande problema per far funzionare bene i mercati. Però in quel caso lì viva i regolatori e buone regole, ma bisogna applicarle. E quindi caro Alberto, iniziamo da uno di tanti tuoi importanti clienti a cui fai le consulenze, cioè c'è tante imprese che dicono di essere per il mercato regolato e poi fottono milioni di italiani perché gli fanno le fatture a 28 giorni, cioè il mese dura 28 giorni. Perché vuoi precisare che io lavoro per Euroconsumer, quindi per l'associazione di tutela dei consumatori, semmai certamente ho a che fare con perché poi dopodiché è chiaro che devi stare un po' in equilibrio, cari ascoltatori delle grandi società, le telco. E quindi il grande problema, e per questo noi ringraziamo il commissario dell'autorità per le garanzie delle telecomunicazioni, professore di politica economica alla Sapienza di Roma, Antonio Nicita, che si è reso disponibile oggi. Non sempre i regolatori parlano apertamente, è vero. Però Antonio è uno che quando c'è da dirle le cose le dice. Antonio, volevo che intanto grazie, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Grazie Antonio. Allora, posto che tu fai due mestieri, no? Quello del commissario dell'Agicom, ma comunque fai anche il ricercatore o lo studioso, ti chiedo di trovare un equilibrio in questa fotografia. Cosa sta succedendo sul mercato delle utility telefoniche? Ma chi lo sa? Lo vediamo anche in Pay TV e in altri ambiti. Cosa sta succedendo? Questa surrettizia, se volete, modalità di aumento dei prezzi che passa attraverso la fatturazione a 28 giorni, che ha una sua logica dal mio punto di vista di omogeneità e quindi non va condannata a priori, ma bisogna essere trasparente. Ma qual è la logica? Fammi sentire Antonio. La logica è... Lo sapevo che c'era uno di loro come consulente. Scusa, è lui che gliel'ha venduta di fatturare a 28 giorni. Sentiamo il professor Nicita. Sì, allora, intanto devo dire quello che dicevate voi, per un regolatore come l'Agcom è un fatto, diciamo, abbastanza noto e dobbiamo tenerlo sempre presente, perché noi regoliamo sia quello che riguarda il lato del consumatore, ma soprattutto regoliamo i rapporti tra le imprese nell'accesso e l'evoluzione del mercato tout court, quindi questo certo. Trade-off tra la libertà di impresa e le tutele, anche nel senso dell'empowerment, cioè di rendere consapevole il consumatore, per noi sono due poli che abbiamo sempre presente. Ora, nel caso specifico, che cosa è successo? È successo che sostanzialmente gli operatori di telefonia fissa e di telefonia mobile, prima quelli del mobile e poi quelli della fissa, sostanzialmente non tutti gli operatori, ma una parte rilevante di questi, sostanzialmente hanno operato due modifiche nella loro relazione contrattuale congiuntamente. La prima, la tariffazione, diciamo, le bollette a 28 giorni, e quindi, diciamo, sostanzialmente l'anno diventa un anno di 13 mesi. La seconda, che deriva da questa, hanno lasciato però il canone mensile, cioè il pagamento mensile è uguale al canone che c'era quando si pagava su 12 mesi. Quindi questa doppia, diciamo così, decisione ha creato evidentemente l'idea che la tariffazione fosse legata alle modifiche della bolletta, che in realtà sono due concetti diversi, ha ragione caro Alberto, ma nello specifico gli operatori italiani hanno operato assieme queste due cose, con il risultato che in questi contratti di durata gli italiani si sono trovati, per la maggior parte dei clienti, a pagare un mese in più. A pagare una bolletta in più, che abbiamo allungato una bolletta in più. E questa, bravo, grazie per aver ricordato che un conto è l'aspetto temporale, un conto è il canone fisso, che invece è stato ereditato da una dimensione temporale. In buona parte mondo anglosassone la fatturazione a settimana ha caratteristiche di omogeneità, specialmente quando devi a che fare, per esempio, con i dati, traffico dati, dove oggettivamente la omogeneità dell'unità di tempo è rilevantissima rispetto a statistiche che altrimenti devono essere sempre ricompensate, perché confrontare, diciamo, febbraio con un mese a 31 giorni comporta, certo, quando stai parlando di centesimi di punto di differenza, voglio ricordarvi, insomma, perché siamo abituati, ormai le telecomunicazioni hanno raggiunto una sofisticazione tale per cui i margini sono veramente ai decimi, no? E avere un 8-9% di differenza tra un mese all'altro in termini di volumi non è proprio semplice. Questa, dal mio punto di vista, è la ratio organizzativa. Diverso è il prezzo, capisci? È chiaro che se tu mi tieni il prezzo di 31 giorni. Commento senza parole. Commenta, caro Secondo Oscar. Me quello che ha detto Carlo Alberto rispetto a come penso io si traduce come messaggio in questa cosa qua. Tu c'hai, cioè, un incidente frontale. Cioè, venuto come logica organizzativa la spiegazione del perché fottere la gente. Scusa, se io uso divido, diciamo, il canone per giorno e lo moltiplico per 28, non fotto nessuno. No. Per me la logica organizzativa di usare unità temporali omogenee ha perfettamente senso per rendere molto più comparabile. In Agcom lo sappiamo bene perché, certo, leggiamo i dati che ci date, i trimestri anch'essi sono difficili da comparare, che non sono omogenei. Ripeto, quando andava bene tutto perché i numeri erano macro, ma quando scendiamo ai decimi di punto, vi assicuro, per il mestiere difficile di fare analisi, che queste cose contano. Quindi un'omogeneizzazione ha senso, non ha senso, e quindi la distinzione è importante, ereditare i prezzi del mese e riportarli a 28 giorni. Questo no, però ecco, distinguiamo. Però questa è la mia opinione, volevo sentire voi. Però difendo la ratio organizzativa e analitica di avere unità temporali omogenee. Scusami Carlo. Prego Antonio. Intanto per distinguere, perché sennò poi dopo si anche con gli operatori partono, diciamo, discussioni più giuridiche, perché ovviamente la materia è stata oggetto di ricorso anche al TAP. Sì. La competenza che l'autorità ha ritenuto di attivare in questo contesto non è stata riferita agli aumenti di prezzo in sé, che per noi sono la conseguenza di una decisione che riguarda invece il cambio, diciamo, in corsa della fatturazione, cioè delle bollette, del periodo, diciamo così, di bollette. Il punto è, quello che tu dici è giusto, ma in qualche modo riguarda gli operatori del settore, riguarda lo studio degli scenari. Qui il tema proprio della comparabilità e dell'omogeneità riguarda invece il consumatore, cioè da una parte la sua capacità di continuare a confrontare offerte, diciamo, che abbiano la stessa durata, ma dall'altra parte anche l'idea che questo cambio, diciamo così, di fatturazione, di fatto, essendo, favorisce esattamente poi quelle strategie di aumento di prezzo, cioè favorisce che cosa? Una modifica sostanziale dell'offerta e quindi una riduzione della trasparenza, quindi in qualche modo l'autorità ha legato queste cose, ma con riferimento proprio all'idea della fatturazione, cioè una routine tipica dei consumatori, cioè quello che è il pagamento mensile, nel momento in cui viene variato in corsa, crea tutto un effetto di confusione del consumatore, per cui andiamo veramente contro l'idea. Antonio, diciamo, su questo ti seguo, che produce empowerment. Ti seguo assolutamente d'accordo. L'empowerment, giusto per tradurlo in termini oggettivi, è la capacità del consumatore di prendere decisioni informate, trasparenti e coerenti, e quindi anche convenienti. Questo è il concetto di empowerment in sintesi. Certo che se cambio in corsa e non comunico, allora sto facendo, secondo me, un abuso o quantomeno una cosa poco ma trasparente. A questo punto, chi ci ascolta, cosa si deve aspettare che avvenga in tempi ragionevolmente certi? Qui mi stai chiedendo una cosa, un vaticinio. Io ti dico che la razza organizzativa della riorganizzazione e quindi anche la convergenza con modelli internazionali ha senso. Certo che se siamo abituati a ricevere stipendi mensili e abbiamo una struttura di costi che invece non è coerente, dobbiamo riconciliarle queste cose, no? E quindi deve partire un percorso di educazione. Le aziende non l'hanno fatto. È stata un'operazione, come dicevo, surrettizia, che secondo me meritava ben altra trasparenza, altrimenti si rischia di buttare via il bambino, fatemi dire, con l'acqua sporca. Ma io posso fare una domanda molto naif da consumatore della strada. Per effetto di questa innovazione, il fatturato delle aziende aumenta o non aumenta dell'8,6% annuo? Dipende dall'elasticità, dipenderà da come si spostano le quote di mercato. Chiediamo ad Antonio se ha già qualche evidenza su questo. Diciamo, è un po' presto per saperlo. Ma è un po' presto per l'evidenza, diciamo, a condizioni date. Potrebbe essere esattamente un aumento dell'8%, ovviamente, come dice Carlo Alberto, al netto di possibili cambi tra operatori. E qui però c'è il secondo pezzo che non riguarda l'Agicom, ma riguarda, diciamo, le discussioni sul mercato. La cosa paradossale di questa iniziativa è che sono scelte individuali degli operatori, che però gran parte degli operatori fanno tutti assieme, esatto. Quindi anche l'idea dell'elasticità al prezzo, cioè mi sono accorto che mi ha aumentato il prezzo per lo stesso tipo di servizio dell'8% anno, cambio operatore, ma l'altro operatore dal quale sto andando quasi contestualmente l'ha fatto anche lui. Quindi, diciamo, non soltanto c'è un potenziale aumento del fatturato, ma c'è un potenziale aumento del fatturato di tutte le imprese che aderiscono nello stesso momento o un momento molto vicino allo stesso meccanismo, al netto della concorrenza tra gli operatori, quindi un'estrazione di rendita. Professore, però scusi, detto proprio, parlando come mangiamo, si tratta di un oligopolio collusivo come pratica, no? Magari lei non se la sente di dirlo, lo dico io. E questo lo capiamo perché sì, cari ragazzi, però avete visto gli andamenti dei prezzi degli ultimi 10 anni delle telecomunicazioni? L'Italia, e qui complimenti ad Agico che ha fatto un buon lavoro. Ma non serve a giustificare un effetto di un però adesso abbiamo i prezzi delle telecomunicazioni mobili tra i migliori d'Europa. Hanno trovato il modo per che poi questa è behavioral economics, bravo. Nel senso che si dice al cliente: la tua tariffazione resta uguale, agisco al margine dell'unità di tempo, quindi tu hai l'impressione che non esista un effetto inflattivo. Esatto. Poi c'è anche la pratica dell'oligopolio collusivo, perché tutti si muovono in branco, quindi non capisco. Qui l'effetto finale sarà un'elasticità molto bassa al prezzo, per cui l'aumento del fatturato io me lo attendo prossimo all'8%. Poi magari non sarà così e gli italiani disdetteranno in massa la telefonia o Sky. State facendo un errore pro tecnico, perché un conto è la quota, diciamo, fissa, se volete, no? È un conto la quota variabile, invece dipende dai giorni. Quindi a seconda della tariffazione. Non proprio tutti. Scusa, sulla componente traffico dati. Allora, ipotizziamo che non sia l'8% che era appena citato da Mario, ma si fermi a 4,5, e ti sembra poco? Ma tanto. Però voglio dire, mettiamolo nel contesto storico di questa discesa, che è stata veramente repentina. Il contesto della necessità, scusate, del fatto che lo Stato l'anno prossimo vuol passare all'incasso con l'ennesima rapina, su, adesso qui Antonio litigherà con me, delle licenze del 5G, che è indispensabile, un pezzo fondamentale della tecnologia del paese. Lo Stato passerà all'incasso anticipato, chiedendo soldi su profitto. Allora, se non, io capisco gli amici delle TLC che stanno, come dire, mettendo fieno in cascina. Non li capisco proprio. Non li capisci, non è che è una prossima rapina dello Stato accumulando munizioni per pagare la 5G, questo è il punto. No, diciamo, però, le cose come stanno. Io devo, devo ringraziare il professor Antonicita, perché ci ha consentito, come vedete, dialogando tra noi, di far capire a chi è in ascolto quali sono i motivi veri che stanno dietro questa faccenda qua. Le imprese c'hanno dei motivi veri? Sì, per me non devono valere, io la penso come Mario. Caro Alberto dice sì, però tenete conto, voglio dire, dopo anni di contrazione dei margini. Sì, ho capito. Io faccio l'industriale, quindi quando le imprese guadagnano di più sono sempre d'accordo. Io e Mario no. Quindi, detto questo, avere con noi il regolatore che ci indirizza e ci fa ragionare, ecco, questo sarebbe il mio sogno di come dovrebbero funzionare. E c'è il regolatore ti ho portato in studio, mica quindi, un politico. Grazie Nicita, noi torniamo tra un minuto. Grazie Antonio. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Questo è da sfascio? Sì, da sfascio. Assolutamente. Decisamente da sfascio. Decisamente da sfascio. Nessuna automobile sfugge a questo ineluttabile giudizio universale. È una legge economica e psicologica. L'industria dello sfascio è la più piccola industria che prospera ai margini del mondo delle automobili, il simbolo della nostra furia di superarci e di fare a pezzi il passato. Allora, questo era un passaggio di un grande reportage storico della televisione bianco e nero, in cui si spiegava agli italiani i diversi settori, pensate, alla produzione, e c'è l'industria dello sfascio. I rottamati, diventata parola d'ordine della città italiana nella Seconda Repubblica, nei leader politici a cavallo della terza, come Renzi, che da rottamatore è diventato già rottamato, e così via. Allora abbiamo detto, mettiamo una rubrica, ogni tanto ci torniamo sopra, in cui chiamiamo fuori da presunti rottamati, meglio se poi erano ancora anche rottamatori, che a nostro giudizio in realtà non sono affatto tali, perché il loro buon senso, quello che hanno fatto, le vicende che hanno visto i protagonisti sono tali da aver dimostrato che altro che rottamati, forse era il caso di dare loro retta. E il primo di questo personaggio che abbiamo scelto è un ex ministro della Lega, Giancarlo Pagliarini. Grazie di essere con noi, Giancarlo. Buona, ciao Oscar. Hai capito, quindi non ti offendere, che è tutto il contrario. Non è che tu sei rottamato. Tu sei uno che c'ha ancora molto da dire rispetto a quello che avviene. Però per chi è in ascolto e non ha ben presente, tu sei stato ministro del bilancio, però con rispetto al corso della Lega attuale come stai messo? Ma quando in effetti qualcuno mi dice ma tu sei Pagliarini, hai fatto il ministro di bilancio, se l'ho fatto quando ero piccolo, ma non è colpa mia. Comunque no, al di là degli scherzi, la Lega di oggi, come la vedo io, è un partito come gli altri, forse un filo migliore degli altri, però il problema è che il paese sta andando a rotoli, e se domani mattina tutte le cose che dice Bonsaldini fossero in gazzetta ufficiale, siamo tutti contenti, ma il paese continuerà ad andare a rotoli, perché continuerà a essere organizzato male. Serve un cambiamento della Costituzione, secondo me. E questo è quello che io, da rottamatore, continuo a predicare quando trovo il modo di parlare con qualcuno. Ma questo partito, questo partito che è diventato nazionale, sud, che effetto ti fa? Molti dicono ci fosse ancora Vivo Miglio. Tu che pensi? A questo lo dico anch'io. Comunque il problema non è questo, il problema è di dire è necessario cambiare la Costituzione e adottare una Costituzione federale, federale è vero, è modello svizzero per intenderci, no? In quel modello lì la sovranità non è dello Stato, la sovranità è degli enti territoriali, e lo Stato è al loro servizio e svolge il compito che gli enti territoriali gli delegano. Cioè lo Stato non è Dio, non è il Padre Eterno, lo Stato è al nostro servizio. Purtroppo queste robe qui le diceva Miglio, le diceva il povero vecchio Paglia, purtroppo Salvini non le dice, peccato perché le ha, ogni tanto fa qualche accenno ragionevole, no? Però non so perché non le tira fuori. Ma perché quindi... l'impressione, non so quella che hai tu e se la condividi, l'impressione è che il calcolo delle convenienze, che insomma per chi ha ereditato un partito che era dato per morto quando l'hanno fatto segretario Salvini, fu Maroni che era presidente di regione a fare questo calcolo, insomma quando glielo diedero in mano il suo problema era quello della sopravvivenza elettorale, riportarlo sui sondaggi ci è riuscito in maniera strepitosa perché si è messo sotto i piedi Forza Italia di Berlusconi. In quel calcolo la convenienza marginale vedeva molto maggiore l'idea di attacchiamo l'Europa, i tedeschi, diciamo usciamo dall'euro, abbracciamo quindi le bandiere del sovranismo, cioè fortissimo Keynes nella politica macroeconomica, Stato, deficit, debito e l'istanza nostalgica della svalutazione con la liretta, che obiettivamente rispetto a un quadro che guardava alle grandi regioni dell'Europa avanzata, come quello di Miglio, e che diceva il nord è una di quelle e quindi deve guardare a quel modello piuttosto che la nostalgia per il sovranismo hegeliano, siamo lontano anni luce. Però un po' questo è quello che è avvenuto. Tu che pensi? Sì, in parte per cercare di raccattare dei voti si sono dette delle idiozie pazzesche. Cioè sperare di svilupparci facendo le valutazioni competitive, tu lo sai meglio di me, è come sperare di vivere bene drogandosi della mattina alla sera, no? Però io ho detto spesso e volentieri, le poche volte vado in televisione, che prevedevo per la Lega, così com'è, con le cose che dice, un bel 16%. Ma se la Lega ci aggiungesse dei ragionamenti seri sul federalismo, modello svizzero per intenderci, senza stare lì a far casino tra nord e sud, quel 16% diventa 41, 42, 43. Perché, credimi Oscar, io giro ancora abbastanza. E quando spiego, guarda, la Svizzera funziona in questo modo, succede questo, succede quest'altro, tutti mi dicono, minchia, hai ragione, è vero, è proprio così, perché non facciamo così anche noi? Perché non facciamo così anche noi? Salvini, che è bravissimo a parlare, andasse in giro a dire un po' queste cose, lo Stato deve essere al nostro servizio, la sovranità deve essere degli enti territoriali, facciamo il referendum, ecco tra l'altro il 22 ottobre c'è un bel referendum che non c'entra niente col federalismo, esatto. Però il concetto della democrazia diretta è un concetto valido, santo cielo, no? Certo. Cioè, tu lo sai, il World Economic Forum tutti gli anni pubblica la classifica dei paesi più competitivi del mondo. Da 6 anni la Svizzera è il paese più competitivo, davanti ai piccoli come Singapore o che so io, e davanti ai grandi come gli Stati Uniti d'America. Perché? Non è che sono dei geni gli svizzeri, no? Sono organizzati bene e quindi guardiamo un pochino come sono organizzati. Cerchiamo di copiare qualcosa, santo cielo, no? Tra l'altro è uscito un bellissimo libro proprio in questi giorni, no? Storia del federalismo elvetico di Federico Cartelli. Io ho scritto la presentazione. Ne approfitto che sono in linea, raccomando di comprarlo, ma fai bene, perché è un libro veramente, tenuto conto che la cognizione concreta di come funziona l'ordinamento svizzero in Italia, al di là di 4 sciocchezze o magari di qualche commentino al volo sui risultati dei referendum che di volta in volta ci sono, non c'è davvero. Questo però, è il punto vero. Però Oscar, c'è anche da dire che la Svizzera è una confederazione, sì, non una federazione, quindi ancora più lasca, e però i loro cantoni hanno tradizioni civiche ultrasecolari. Bellissimo. Che, voglio dire, senza offendere nessuno, sull'Italia faccio fatica ad immaginare su tutto il territorio nazionale, perché come Pagliarini sa benissimo, essendo esperto della materia e della Svizzera, in Svizzera si vota anche eventualmente per aumentare le imposte, e molte volte vincono i sì. Quindi io non mi immagino un civismo del genere trasposto alla realtà di questo paese, e non si offenda nessun italiano. No. Ma i dati sono questi, perché anch'io sono un cultore della Svizzera. Siccome abbiamo tutti studiato, non te lo vedi oggi, ma come obiettivo non ti andrebbe bene. Sì, però ci va bene, sì, lavoriamo in quella mi va bene, mi va bene, però voglio dire, questi sono movimenti culturali che la Svizzera ha sviluppato nei secoli nelle loro matrici storiche originarie. Gruppi, l'Italia resta un'espressione geografica per quanto mi riguarda. Io, a me il federalismo andrebbe benissimo, perché sarebbe il principio di responsabilità degli amministratori, che a me è molto caro. Purtroppo bisogna fare i piatti con gli ingredienti di cui si dispone. Però, e quindi io sono Mario, d'accordo con Pagliarini, ma sono scettico e sfiduciato. È che, tra virgolette, lo stato etico che fin dal, io dico, dalla degenerazione dell'Italia liberale, poi con il fascismo, poi con i partiti chiesa, ha creduto, lasciamo perdere cosa pensano gli azionisti che continuano a pensarlo, che ha creduto di educare con lo stato etico, tra virgolette, le tare morali degli italiani, per essere sintetici. Ha fallito in qualunque sua declinazione, certo, repubblicana, certo, monarchica, certo, autoritaria, democratica e partitocratica. Chiaro. Questo è il punto vero. Quindi, perfettamente se d'accordo. Io sposo, come sposo, il tuo punto di vista su esame acriticamente realistico della propensione civile degli italiani, detto questo, credo che dal basso forse si costruisce meglio, perché si vellica di più il principio della convenienza personale, del controllo personale, piuttosto che dall'alto. Io per questo la penso come il vecchio Paglia, non so come la pensa Carlo Alberto. Io farò una domanda a Pagliarini un po' diversa, cioè siccome andremo felicemente verso il proporzionale e quindi verso un modello che richiede capacità di mediazione, io chiedo alle vecchie glorie, magari rottamate ma riciclabili, se posso dire, se c'è spazio anche per loro, per la cultura di chi sa stare in gruppo e non semplicemente vuole pensare di portare a casa la maggioranza. Che dice Pagliarini? Ma no, assolutamente, cioè voglio dire, rifaccio l'esempio della Svizzera se volete, ma è una cosa che io sento personalmente dentro. Lì la chiamano la formula magica. In Svizzera tu fai le elezioni, i quattro partiti che prendono più voti di tutti e che sono diversissimi tra di loro vanno assieme al governo, assieme. In questo governo in Svizzera ci sono quattro partiti che le ultime elezioni hanno preso assieme l'86% dei voti e sono diversissimi, ma lì il concetto è diversi che lavorano assieme per i cittadini. Invece c'è sempre la lotta politica, perché il principio è: noi vogliamo litigare con gli altri, vogliamo vincere, perché? Perché vogliamo gestire il potere. E lo so, io credo in Italia vogliono gestire il potere. E lo so, ma perché ce l'hanno troppo in mano, troppo in mano. Diversi che lavorano assieme, esattamente, anche perché ne hanno meno di gestibile. Questa è la differenza. Comunque io voglio il ritorno dei politici stagionati, che hanno meno cultura del potere, più del servizio. Ecco, vasto programma, viva Pagliarini per quello che mi riguarda, altro che rottamato. Torniamo tra un minuto. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle messe. Dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qua, vive invece la sigletta, certo, felliniana perché vive, uno dei nostri punti di riferimento più solidi a cui siamo sempre grati, il nostro amico Udo Gumpel. Beh, ma scusa, dopo aver saputo che abbiamo più investimenti verso la Germania, noi di loro, a questo punto certo, possiamo forzarlo Udo un po'. Ma guarda, io non riesco a capire. Udo Gumpel, innanzitutto grazie di essere con noi, come stai? Sto benissimo, sono a Santa Severa, non direttamente sul mare, ma a 50 metri, perché magari vi disturba. E però adesso oggi è una giornata piatta, calma, una giornata meravigliosa in questo posto di villeggiatura vicino a Roma. Senti, allora, il 24 settembre si vota in Germania, la Merkel ha già vinto, perché ohimè l'unico grande dibattito televisivo in cui sono incrociati i ferri l'ha vista stravincere, una non sorpresa per noi, ma è così. Ti chiedo due cose. Uno, se spieghi ma com'è che improvvisamente invece il ministro degli esteri Sigmar Gabriel è popolarissimo rispetto a Scholz, che non c'è riuscita, ma soprattutto, visto che possiamo dare per scontato il risultato, a oggi dovessi fare un azzardo, alla fine il governo lo fa con i verdi o lo fa con i liberali, che ci puoi anticipare? Allora, io sono molto contento come osservatore che non ha nessuna tessera di nessun partito e che ci sia Gabriel, il vice ministro, cancelliere, scusate, ministro degli esteri, e che finalmente porta un po' di verve. Perché quello che voi avevate detto come tra dibattito politico stravinto dalla Merkel, in realtà è stato un disastro per la democrazia tedesca. E ve lo dico perché loro erano troppo vicini, erano gentilissimi tra di loro, non mancavano le differenze che ci sono e sembravano tutti pappa e ciccia, e questo ha fatto sobbalzare immediatamente il voto di protesta, per esempio per l'AfD, da 8-11%. Adesso magari saranno discesi, però questo è il vero problema, che il pubblico ha l'idea che non ci sia scelta, e questo fa crescere l'odio, fa crescere la rabbia. Anche nella ricca Germania ci sono strati della popolazione che si sentono esclusi, e che naturalmente internet in questo ha un ruolo estremamente negativo, no? Perché una volta l'idiota stava lì a mugugnare al bar e arrivava qualcun altro e diceva: ma tu sei un cretino, e allora fine del discorso. Oggi le persone, anche senza alcuna ragione oggettiva, perché non c'è la povertà in Germania, però ci sono persone che pensano che loro non sono stati messi nel posto giusto e che arrivano gli stranieri che rubano il lavoro, le stesse idee che serpeggiano in Italia, che magari qua raggruppano il 30% dell'elettorato, ma anche in Germania, e c'è una bella fetta di persone che la pensa così, che non vanno a votare. Perciò io non vedo questo come un punto a favore, e questa somiglianza delle idee, questa gentilezza di Scholz nei confronti dell'America. Allora ben venga uno come Gabriel, e che ha messo i pugni sul tavolo, esatto. E allora ha detto: lì ci sono delle gravi differenze, la Merkel sta velleggiando bene, però ci sono delle tempeste in arrivo sulla Germania, non solo Dieselgate ma tutta la questione energetica, ci sono delle tempeste anche demografiche, e non possiamo far finta di niente e continuare cioè questo è andato, ha portato una, ha fatto bene, ha rimesso sul tavolo sane distanze, ecco. Ecco, allora mi scuso per la lunghezza della risposta. No, spiegato. Volevo anche dirti due cose sui liberali verdi come eventuali, questo quello che si chiama in Germania Giamaica, no? Per i colori della Giamaica, non per la preferenza dei verdi per la marijuana o per cose del genere, no? Purtroppo i liberali si sono dati un programma che sembra Beckett o the 70s, significherebbe cancellare, sarebbe metti un ultra Schäuble 15 anni fa. Sì. Questo è il programma dei liberali. Dunque, distruzione totale della costruzione europea. Diciamo, hanno molto Schäuble radicalizzato, e però sono risaliti sui voti grazie alla radicalizzazione delle scelte economiche. Certo, perché se tu porti una opinione radicalmente diversa, no? E dal mainstream che ormai abbraccia il 90%, allora è chiaro che tu attiri qualche attenzione voto. Però quindi tu dici, mi pare di capire, perché esatto, meglio sì, verdi, meglio i verdi. Ma i verdi, sai, i verdi sono diventati un po' adulti, capelli grigi, sono ex radicali, e loro hanno vinto come tema, perché la Germania, sapete che è uno dei paesi più ecologizzati in Europa, hanno vinto come tema, però anche loro si sono un po' seduti, sono un po' appeased, sono rallentati nella loro verve, e loro hanno una grande difficoltà di distinguersi dal marchio Merkel, perché la Merkel ha preso qualsiasi cosa dei verdi e l'ha fatta proprio, certo, no? E allora è molto complicato, sarebbe una coalizione possibile tra verdi e neri, come diciamo noi i democristiani, però non so se loro hanno i voti. Allora, comunque, la cosa più importante in Germania attualmente è la lotta per il terzo posto. Sì. Primo la Merkel, secondo socialdemocratici, ma avranno un risultato, senza voler essere Cassandra, molto molto debole, 22-25, sì. Dunque non si scostano, e Scholz ha già sparato le sue polveri, e credo che adesso Gabriel risale. E chi vedi terzo? Chi vedi terzo? Io vedo terzo forse i verdi, perché la gente vuole una chiara distinzione, anche in senso liberale, ma non anti-economia, anti-europea. E perché probabilmente questo fatto che ci sono questi radicali molto di destra che stanno sempre andando più verso xenofobia, equilibra dall'altra parte, va bene, e loro richiamano i voti, diciamo, che rispondono, sai, no? Allora più moderati, più liberali, più europeisti. Allora, agli atti, questa a oggi la previsione del nostro amico Udo Gumpel. Noi siamo arrivati alla fine di questa calcata di queste due ore, compare dei conti della Belva. Mario! Mario che è distratto, Mario. Beccato, Carlo Alberto c'è! Carlo e Oscar, vi salutano e vi ringraziano in diretto in podcast e con me appuntamento la lunedì mattina, naturalmente alle 8:15 con la Luca Talese con Attenti Noi Due, ma sabato prossimo noi siamo qua, non ci mollate! Alle mesta, dai tempi di Scipio Filippo.